sono due considerazioni. Se analizziamo il livello attuale dei servizi che vengono erogati nelle diverse regioni, quindi se consideriamo i costi e il livello di servizio e controlliamo quindi per il livello di servizio, si arriva a dei valori attorno agli 11 miliardi, che significano non che si può tagliare overnight quell'importo, significa che ci sono delle regioni, alcune regioni, che spendono decisamente troppo e spendono soprattutto troppo rispetto alla qualità e alla natura delle prestazioni che erogano. Una seconda invece analisi cambia un pochino la prospettiva, mantiene una dimensione cosiddetta di perequazione, di redistribuzione tra le regioni, però pone ai cittadini una domanda. È sensato che un cittadino campano e un cittadino lombardo ricevano importi diversi, quindi una sorta di quota capitaria, se si controlla per la struttura demografica delle due regioni, cioè si controlla per la distribuzione della popolazione per classi di età? A nostro avviso la risposta è no, quindi un elemento di standardizzazione in una prima fase potrebbe avvenire anche considerando la struttura della popolazione nelle diverse regioni.